climate change is not an optional extra. I cambiamenti climatici non sono un optional, non sono un digestivo o un aperitivo che andiamo a prendere quando ci sentiamo bene. Questa è una sfida che non dobbiamo dimenticare per la crisi finanziaria. Non compiamo con i cambiamenti climatici lo stesso errore che abbiamo fatto con la crisi finanziaria. Non l'abbiamo anticipata. Sui cambiamenti climatici dobbiamo impegnarci a fondo, con la necessaria flessibilità ma mantenendo fisso l'obiettivo che, del resto, è stato fissato dai capi di Stato e di Governo l'anno scorso.